Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre, ormai d'abitudine, scusate se mi ripeto, ma è importante per tutti noi e per tutti voi alcune informazioni di servizio. La prima, la più scontata, ma la più importante, è la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. La seconda riguarda il mio blog, che state visitando sempre più frequentemente. Devo dire, ricevo oramai migliaia e migliaia di accessi a settimana, di questo veramente vi ringrazio, ed è Guardie o Ladri, lo trovate sull'homepage del Sole 24 Ore. E la terza informazione di servizio riguarda la possibilità di scaricare tutte le puntate di tutte le trasmissioni attraverso il sito di Radio 24. Allora, come sapete, io non amo molto affrontare i casi personali, solo quando sono esemplificativi di rapporti complessi più difficili, soprattutto con chi eroga servizi. Da questo punto di vista vorrei ancora una volta invitarvi, dopo molti casi che si sono succeduti negli ultimi giorni, ad avere un po' più di coraggio quando denunciate le cose. Mi spiego, ci contattate, poi quando magicamente le cose si risolvono perché contattiamo la controparte che, guarda caso, miracolosamente risolve il problema che fino al giorno prima era irrisolvibile, spesso gli ascoltatori fanno un passo indietro. Non è una buca delle lettere questa trasmissione, quindi l'importante è che quando ci contattiate sappiate che dovete andare avanti fino in fondo. Allora, abbiamo ricevuto una lettera di una radioascoltatrice, di una famiglia di radioascoltatori della provincia di Pavia, di Landriano, relativa ad una difficoltà con un subentro nei confronti di un contratto Edison. E quindi, per parlare di questo, che è un caso sì personale, ma che probabilmente riguarda molte persone, partiamo da questa storia per cercare di saperne di più, abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Sandro Catufa. Buongiorno. E buongiorno, Sir Galullo. E abbiamo anche la dottoressa Manuela Gatteschi, che è la responsabile di un brutto termine, customer care, vale a dire nient'altro che i rapporti con il cliente, la soddisfazione del cliente di Edison. Buongiorno, dottoressa Gatteschi. Buongiorno a tutti. Allora, dottor Catufa, qual era il problema che avevate voi in famiglia? Dovendo subentrare ad una, appunto, alla Edison Gas, i primi di novembre contatto il numero verde per sapere la procedura da seguire. Mi viene risposto che mi avrebbero inviato via email i documenti da compilare e rispedire, e nel frattempo ha chiesto i dati di chi usciva e di chi si entrava. Ecco, quindi una procedura abbastanza bella, mi pare, molto molto semplice, no? Esatto. Il giorno 17 novembre, dopo aver compilato tutti i documenti, spedisco via fax all'800 031 143 i documenti richiesti, attendo una decina di giorni e chiamo ancora il numero verde per sapere se la pratica è andata in porto. Mi risponde l'addetto dicendo che la pratica ancora non c'era nessuna novità, e che comunque mi invitava a ridare tutti i dati del subentrante perché nel giro di 24-48 ore mi avrebbe fatto chiamare da un incaricato per vedere di risolvere il problema. Ecco, ma lei ha avuto mai il sentore? Poi questa domanda viene fatta ovviamente perché poi sentiremo la voce di Edison. Avete mai avuto il sentore che voi avevate sbagliato qualcosa nell'indicazione di un numero di telefono, nell'indicazione di una mail? Cioè, che voi avevate in buona sostanza commesso qualche errore che si può fare digitazione, di scrittura, insomma, è logico, no? All'inizio no, perché comunque io, riguardando i documenti, l'indirizzo del subentrante, sia il numero di cellulare che il numero di telefono fisso che l'indirizzo mail, era a posto. Comunque ricontinuo a fare delle telefonate a distanza di 4-5 giorni al call center senza risolvere niente. Il giorno 16 di dicembre decido di inviare tutti i documenti per raccomandata al centro di Selvazzano Dentro, gli stessi documenti inviati per fax. La raccomandata è stata ricevuta il giorno 21 dicembre. Aspetto ancora 3-4 giorni, richiamo il numero verde e mi dice che ancora non c'è nessuna novità. Va bene, allora io direi di fermarmi qui, perché magicamente, dottoressa Gatteschi, io sono molto malizioso, magicamente il caso l'altro giorno è stato risolto. Confermo che è stato risolto, ed è stato risolto anche grazie alla mail che il signor Catufa ha inviato a Radio 24. Perché? perché noi abbiamo contattato un paio di volte la signora Barbara al numero di cellulare che aveva indicato sulla scheda, esatto. E non l'abbiamo trovata. Il cellulare suonava, ma non è mai stata data risposta. Mm. Poi abbiamo anche inviato a questo punto, prima di Natale, una email che ci è tornata indietro. Verificando adesso la email del signor Catufa con il foglio che io ho in mano in questo momento, mi rendo conto che c'è stata un'interpretazione non corretta di una lettera, per cui il nostro operatore, che seguiva una procedura standard per la gestione della voltura o subentro diretto, ha interpretato in maniera non corretta la lettera, e quindi l'indirizzo email era errato. Ecco, io vorrei capire con lei una cosa, dottoressa Cateschi, cioè l'importante è che poi i casi si risolvono, però quello che a me sembra sempre un po' strano, no? È questo. Allora, se io sono un imprenditore e ho quindi la possibilità di, e anzi il dovere di attrarre a me sempre più acquirenti, compratori, clienti, mettiamolo come vogliamo, ho anche la necessità di curarmi chi ho già nel mio portafoglio clienti, e anche un potenziale cliente invece sempre più ampio. E quello è il ruolo di un impresa, cercare di farsi conoscere, avere sempre maggiori estimatori. Ecco, non vi si è accesa una lampadina quando in questa situazione, come probabilmente chissà quante ce ne saranno, ci vogliono mesi per risolvere un problema, vuoi per un punto di una mail, vuoi per un numero sbagliato che non si legge, ecco, ma non c'è anche una proattività da parte vostra nel cercare di risolvere i problemi? Assolutamente sì, è difficile quando noi non riusciamo a entrare in contatto con il cliente, anche perché prima ho omesso che mancava un documento fondamentale al plico di documenti, e che era la carta d'identità del precedente intestatario, ed è proprio a salvaguardia anche del nostro cliente, in quel momento cliente di Edison, che noi non abbiamo mandato avanti la pratica. Quindi ha ragione lei che Edison si fa e si deve fare sempre parte attiva, però abbiamo proprio istituito questa procedura che va a salvaguardare il cliente che esce dal rapporto di fornitura, per cui mi rendo conto di quello che lei ha detto, ma noi eravamo proprio impossibilitati. Ho capito. A questo punto, allora, visto che c'è stato anche probabilmente qualche errore, e questo serve per dire a tutti i nostri radioascoltatori: attenzione a quello che scrivete, alla correttezza dei numeri, ricontrollatelo, guardate bene tutto ciò che è necessario per subenti piuttosto che per nuovi contratti. Ecco, visto che quindi questi errori possono capitare, dottor Catufa, lei si è reso conto di questi errori che ritardavano la pratica, oppure ha detto, una volta che li contatto, poi insomma ci penseranno anche loro a rincorrerci? Volevo precisare che a fianco al numero di cellulare di mia figlia c'era il numero fisso, che era fax, segreteria e telefono di casa. Quindi se il numero precedente, il cellulare, non dava segni di vita, o comunque mia figlia per il lavoro che fa non può rispondere, due centimetri più a destra c'era il numero di casa, che fa già appunto la segreteria e fax, bastava contattare quello e lasciare un messaggio. Comunque il 4 di gennaio alle 18 sono riusciti a contattarmi, quindi il motivo ci sarà stato, nessuno gli ha dato un altro numero. I numeri che stanno sulle lettere sono sempre quelli. Certo, quindi... No, ma infatti per questo dicevo che spesso Radio 24, questa trasmissione, così come altre in giro per l'Italia, in giro per le radio e per le TV, riescono a compiere dei piccoli miracoli di cui francamente ne farei personalmente io a meno, proprio perché vorrebbe significare che tutti si vive in un paese in cui si è tutti più attenti ai rapporti con gli altri. Dottoressa Catteschi, io direi di concludere con lei dicendo: quali sono gli errori che più frequentemente voi incontrate e che bisogna evitare? Allora, innanzitutto ci tengo a precisare al dottor Catufa, nostro nuovo cliente, che noi siamo riusciti a contattarlo il 4 gennaio e a mandare avanti la pratica di voltura, perché sulla email della signora Barbara c'era un numero di cellulare diverso da quello che lei aveva. Sì, no, ma questo abbiamo già specificato, ma abbiamo sentito anche la replica, vale a dire che c'erano anche i numeri di casa e quant'altro. Perfetto. Questo l'abbiamo già detto, quindi ciascuno poi rimane sulle proprie posizioni. Ci dica un errore che è da evitare nel momento in cui si contatta Edison e che magari a volte sbadatamente i clienti possono commettere. Allora, innanzitutto, come diceva lei, dare sempre in maniera molto chiara ed evidente tutti i possibili indirizzi telefonici e email scritti anche in maniera chiara, che ci permettano di raggiungere il cliente nella maniera più semplice. Benissimo, benissimo. E con questo piccolo ma fondamentale consiglio io chiudo la trasmissione ringraziando la dottoressa Catteschi e il nostro radioascoltatore da Pavia. Ringrazio in regia Elisabetta Fosconi e in studio Filippo Reggi, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.